Alzandosi, posò i pennelli accanto ai fiori e il piccolo grembiule che fu allora visibile attorno alla sua vita e che lei indossava per non sporcarsi con i colori, accentuò l'aspetto quasi contadino che le conferivano la cuffia e i grossi occhiali in contrasto con il lusso della servitù del maggiordomo che aveva servito il tè e i dolci del cameriere in livrea che la marchesa fece venire per illuminare il ritratto della duchessa di Montmorency, badessa di uno dei più celebri capitoli della Francia orientale. Tutti si erano alzati in piedi. «La cosa divertente, disse Madame de Villeparisis, è che in questi capitoli, dove era facile che la badessa fosse qualche nostra prozia, le figlie del re di Francia non venivano ammesse. Erano capitoli molto esclusivi». «Non ammettevano le figlie del re. E perché mai?» chiese Bloch stupefatto. «Ma perché la casa di Francia non aveva più un numero sufficiente di quarti da quando si era male imparentata?» Lo sbigottimento di Bloch sembrava non avere limiti. «Male imparentata la casa di Francia? E con chi?» «Ma con i medici, evidentemente», rispose Madame de Villeparisis col tono più naturale del mondo. «Bel ritratto, non è vero?» aggiunse. «È in perfetto stato di conservazione». «Ricordate, mia cara», intervenne la dama acconciata alla Marie Antoinette, «che Liszt, quando ve l'ho portato qui, ha detto che questa era la coppia? Ah, io mi inchino a un giudizio di Liszt in materia di musica, ma quanto alla pittura... Del resto era già rimbambito e poi non ricordo che abbia detto niente di simile. Ma non siete stata voi a portarmelo, cara. Avevo pranzato con lui una ventina di volte dalla principessa di Sayn-Wittgenstein». Alix aveva mancato il colpo. Tacque, restando immobile in piedi. Il suo viso, impiastrato di vari strati di cipria, sembrava di pietra. E, così nobile, il suo profilo faceva pensare, come se la sua mantellina nascondesse un basamento triangolare e muscoso, alla sgretolata divinità di un parco. «Oh, ecco un altro bel ritratto!» sentenziò lo storico. S'aprì la porta e fece il suo ingresso la duchessa di Guermantes. «Chi si vede? Buongiorno!» le disse senza il minimo movimento del capo Madame de Villeparisis mentre faceva scivolare la destra fuori da una tasca del grembiule per tenderla alla nuova arrivata. Poi, distogliendo subito da lei la sua attenzione, si rivolse di nuovo allo storico. «E il ritratto della duchessa di La Rochefoucauld?» Un giovane domestico, dal portamento spigliato e dal viso incantevole, ma rifilato con tanta precisione per ottenere un risultato perfetto che il naso risultava un po' troppo rosso e la pelle leggermente infiammata, come se recassero qualche traccia di un recente intervento scultoreo, entrò portando un biglietto da visita su un vassoio. «È un signore che ha già chiesto parecchie volte della signora Marchesa. Gli avete detto che ero in casa? Ha sentito le voci». «Ebbene, sia, fatelo entrare». «Oh, è un tale che mi hanno presentato», spiegò Madame de Villeparisis. «Mi ha detto che ci teneva tanto a essere ricevuto qui. Non l'ho mai autorizzato a venire. Ma, insomma, sono già 5 volte che si prende il disturbo. Non bisogna mortificare la gente. Caro signore, e anche voi, signore», aggiunse, rivolgendosi nell'ordine a me e allo storico della fronda, «vi presento mia nipote, la duchessa di Guermantes». Mi produssi in un profondo inchino. Lo storico fece altrettanto e, come fosse convinto che a quel saluto dovesse seguire qualche riflessione cordiale, i suoi occhi s'animarono e la sua bocca stava per aprirsi quando fu raggelato dall'atteggiamento di Madame de Guermantes, la quale, approfittando dell'indipendenza del suo busto, lo sporse in avanti con esagerata cortesia e lo ratterrizzò di misura senza che il suo volto e il suo sguardo dessero minimamente a vedere che si era accorta della presenza di qualcuno davanti a lei. Dopo un lieve sospiro, si limitò ad esprimere la nullità dell'impressione prodottale dalla visita dello storico e dalla mia, eseguendo certi movimenti delle pinne del naso con un'esattezza che attestava l'assoluta vacanza ed inerzia della sua attenzione. Il visitatore importuno entrò con aria fervida e ingenua, puntando dritto verso Madame de Villeparisis. Era Le Grandin. «Mi sono molto grato di aver voluto ricevermi, signora», disse, sottolineando la parola «molto». «È un piacere di una specie affatto rara e sottile che concedete a un vecchio solitario e vi assicuro che esso non mancherà...» Scorgendomi, si interruppe di netto. «Stavo mostrando al signore questo bel ritratto della duchessa di La Rochefoucauld, la moglie dell'autore delle Massime, e un quadro di famiglia». Madame de Guermantes, intanto, salutava Lix, scusandosi di non essere andata, come ogni anno, a farle visita. «Ho avuto vostre notizie da Madeleine», aggiunse. «Era da me oggi a colazione», disse la marchesa del Chemalaché, accarezzando con soddisfazione il pensiero che Madame de Villeparisis non avrebbe mai potuto dire altrettanto. Nel frattempo io conversavo con Bloch e temendo, per quanto avevo saputo del cambiamento di suo padre verso di lui, che potesse invidiare la mia vita, gli dissi che la sua era certamente più felice. Erano parole dettate da un semplice istinto di gentilezza, ma è facile con la gentilezza convincere della sua fortuna chi ha molto amor proprio o ispirargli il desiderio di persuaderne gli altri. «In effetti», mi disse Bloch con aria beata, «la mia vita è deliziosa. Ho tre grandi amici e non ne vorrei uno di più. Ho un amante adorabile e sono immensamente felice. Raro che ai mortali il padre Zeus accordi tante gioie». Penso che volesse soprattutto vantarsi e farmi invidia. Ma forse, nel suo ottimismo, si insinuava anche una qualche ambizione di originalità. Risultò evidente che voleva evitare le consuete banalità del tipo... «Oh, no, non ne valeva la pena, eccetera», quando, alla domanda che gli feci «è stato bello?» su un ballo pomeridiano che aveva dato a casa sua e a cui non mi era stato possibile partecipare, rispose in tono tranquillo, indifferente, come se si fosse trattato di qualcun altro. «Ma sì, bellissimo, non poteva riuscire meglio, veramente stupendo». «Quanto ci avete rivelato è per me di estremo interesse», disse Le Grandin a Madame de Villeparisis. «Proprio l'altro giorno mi dicevo che avevate molto del suo stile nel taglio netto e vivo della frase e in qualcosa che vorrei definire, con due termini contraddittori, rapidità lapidaria e fulminea immortalità. Avrei voluto oggi prendere nota di tutte le vostre parole, ma le terrò a mente. Esse sono, per dirla credo con Joubert, amiche della memoria. Non avete mai letto Joubert? Oh, gli sareste talmente piaciuta! Mi permetterò stasera stessa di farvi avere le sue opere. Sono così fiero di potervi presentare il suo talento. Non aveva la vostra forza, ma c'era anche lui molta grazia». Avrei voluto andare subito a salutare Le Grandin, ma lui continuava a restarmi il più lontano possibile, certo nella speranza che non sentissi i complimenti iperbolici di cui, con grande raffinatezza d'espressione, non si stancava di colmare ad ogni proposito Madame de Villeparisis. Lei scrollò le spalle sorridendo, come se Le Grandin la stesse prendendo in giro, e si rivolse allo storico. «E questa è la famosa Marie de Rohan, duchessa di Chevreuse, che in prime nozze aveva sposato il signor de Luynes. Madame de Luynes mi fa venire in mente Yolande. Sapete, cara, ieri è venuta da me. Se avessi immaginato che non avevate impegni per la serata, avrei mandato a prendervi. La Ristori, arrivata all'improvviso, ha recitato davanti all'autrice dei versi della regina Carmen Silva. Ah, è stato di una bellezza!» Che perfidia, pensò Madame de Villeparisis. È sicuramente di questo che parlava a bassa voce l'altro giorno con Madame de Boulaincourt e Madame de Chaponnet. Ero libera, ma non sarei venuta, replicò. Ho sentito la ristoria al meglio dei suoi mezzi, ormai è un rudere. E poi detesto i versi di Carmen Silva. La ristoria è venuta da me una volta. È stata la duchessa d'Aosta a portarla per recitare un canto dell'inferno di Dante. In quello era davvero impareggiabile. Alix incassò bravamente il colpo. Era di marmo, come sempre. Il suo sguardo rimaneva penetrante e vacuo, il suo naso nobilmente arcuato, ma una guancia si stava squamando. Strane, lievi vegetazioni, verdi e rosa, le invadevano il mento. Ancora un inverno, forse, e sarebbe crollata. «Ecco, signore, se amate la pittura, guardate quel ritratto di Madame de Montmorency», disse Madame de Villeparisis alle Grandaines per interrompere il flusso rimontante dei suoi complimenti. Madame de Guermantes approfittò del momento in cui le Grandaines allontanava per indicarlo a sua zia con uno sguardo ironico e interrogativo. «E il signor Le Grandin?» rispose sottovoce Madame de Villeparisis. «Ha una sorella che si chiama Madame de Cambremer, cosa che anche a te, suppongo, dirà ben poco». «Ma come, la conosco benissimo!» esclamò Madame de Guermantes, mettendosi una mano davanti alla bocca. «O meglio, non la conosco, ma Bazin, chissà perché, è saltato in testa di dire a quel donnone di cui lui incontra Dio sa dove il marito, di venire a trovarmi. Non potete immaginare cosa sia stata quella visita. Mi ha raccontato che era stata a Londra, mi ha elencato tutti i quadri del British. Anzi, tal quale mi vedete, appena vi lascio, vado a schiaffare il mio biglietto a casa di quel mostro. E non pensate che sia un'impresa delle più facili, perché, col pretesto che moribonda, non c'è mai caso che esca, e ci si va dalle 7 di sera o alle 9 del mattino e sempre lì pronta a offrirvi delle torte di fragole. Ma sì, ve lo assicuro, è un autentico mostro», ribadì Madame de Guermantes in risposta a uno sguardo interrogativo della zia. «È un essere impossibile, dice pennaiolo, insomma cose del genere». «Cosa vuol dire pennaiolo?» si informò Madame de Villeparisis. «Ma cosa volete che ne sappia?» finse di indignarsi la duchessa. «Non voglio saperlo, non lo parlo io quel francese». Poi, vedendo che la marchesa ignorava veramente il significato di pennaiolo, per togliersi la soddisfazione di far vedere che era sì purista, ma anche colta, e per burlarsi di sua zia dopo essersi burlata di Madame de Cambremer, «Ma via», aggiunse con un risolino tenuto a freno dagli avanzi del finto malumore. «Lo sanno tutti. Un pennaiolo è uno scrittore, uno che usa la penna. Ma è una parola orribile, roba da far accapponare la pelle. Non la userei nemmeno sotto tortura. E così questo è il fratello. Non avevo ancora realizzato, ma in fondo è abbastanza comprensibile. Hanno tutti e due la stessa umiltà da scendiletto e le stesse risorse da biblioteca circolante. Lei non è meno adulatrice di lui, è altrettanto noiosa. Comincio a farmi un'idea della famiglia». «Siediti, prenderemo una tazza di tè», disse Madame de Villeparisis a Madame de Guermantes. «Serviti da sola. Non hai certo bisogno di vedere i ritratti delle tue bisnonne, li conosci quanto me». La marchesa ben presto tornò a sedersi e si mise a dipingere. Tutti si avvicinarono. Io ne approfittai per spostarmi verso le Grandaines e, poiché non vedevo niente di colpevole nella sua presenza in quel luogo, gli dissi, senza pensare quanto l'avrei ferito e per di più persuaso della mia intenzione di ferirlo: «Ebbene, signore, sono quasi scusato d'essere in un salotto, dal momento che ci siete anche voi». Da queste parole Le Grandin si fece l'idea, tale almeno fu il giudizio che espresse sul mio conto alcuni giorni dopo, che io fossi una piccola creatura profondamente perversa, tutta dedita al piacere del male. Potreste almeno essere così cortese da salutarmi prima, replicò senza tendermi la mano, con una voce rabbiosa e volgare di cui non lo sospettavo capace e che, priva di qualsiasi rapporto razionale con ciò che diceva di solito, ne aveva uno più immediato e pungente con ciò che provava. Il fatto è che quel che proviamo, decisi come siamo a nasconderlo a tutti i costi, non abbiamo mai pensato a come esprimerlo. E d'improvviso, a parlare in noi è una bestia immonda e sconosciuta, il cui accento può persino far paura a chi riceve la confidenza involontaria, ellittica e quasi insopportabile del nostro difetto e del nostro vizio, la stessa paura che ci farebbe la confessione subitanea, indiretta e bizzarra di un delinquente il quale non potesse impedire a se stesso di accusarsi di un assassinio di cui non lo sapevamo colpevole. Non ignoravo, certo, che l'idealismo, anche il più soggettivo, non vieta a grandi filosofi d'essere dei ghiottoni o di presentarsi con pervicacia all'Académie. Ma Le Grandin, francamente, non avrebbe dovuto ricordare tanto spesso che apparteneva a un altro pianeta, se tutti i suoi moti convulsi di gentilezza o d'ira erano governati dal desiderio di acquisire una buona posizione sul nostro. «È chiaro che se mi perseguita 20 volte di seguito per farmi andare in un posto», proseguì a voce bassa, «non posso poi, pur conservando il pieno diritto alla mia libertà, comportarmi da villano».